Paolo Scibilia, da Sentimenti nel Vento. Questa casa. Questa casa senza te mi dà brividi di perché. Questa casa senza te, la regina senza il re. Lì sei sola e sei mia, nella casa, nella via. Questa casa sol va via se la vita tu sei mia. Con il sol o senza il sol ho bisogno il tuo calor. Questa casa è nuova e antica, senza te e la fatica. Questa casa è senza tetto, ed è il tuo amor che mi diletto. Questa casa è nuova e antica, senza te e la fatica. Questa casa è un sol muro, chissà cos'è il futuro. Vico il cieco e tenebroso, senza te non ho riposo. Questa casa è smarrita, senza te non c'è più vita. Questa casa trabocca di pianto, dei felici brevi giorni soltanto. Questa casa ricorda il passato strano, che con te dividevo lontano. Questa casa profuma di un fiore, che correndo ritorna a portarmi l'amore.